tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche lei. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci viene più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Benvenuti ad una nuova puntata del notiziario ateo anticlericale. Ricordiamo il sito del Circolo Giordano Bruno, giordanobrunomi.wordpress.com, con motore di ricerca soprattutto utile per le circa 500 recensioni letterarie. Mail notiziariogiordanobruno@gmail.com. Calendario anticlericale dantesco 2021, info@sicilialibertaria.it. Iniziamo dal quotidiano nazionale del 7 giugno. La Chiesa e i resti dei bambini indigeni. Il monito del Papa. Fare piena luce, figurati. Sono 215 i corpi sepolti senza nome. Durante l'Angelus il pontefice, insomma, ricorda la cosa. Shock in Canada per la fossa comune clericale vicino a un'ex scuola cattolica. Tutti questi bambini furono assassinati dalle suore a causa della loro negligenza. 8 per mille. Ricordiamo che chi fa la dichiarazione dei redditi, modulo unico 730, c'è l'8 per mille. Raccomandiamo di firmare per lo Stato. Pedofili, la Chiesa ha fallito, il Cardinale lascia, dal Quotidiano Nazionale del 5 giugno. I numeri shock. Oltre 3.600 vittime dei preti pedofili dal 1946 al 2014. Il cardinal Marx, vicinissimo al Papa, insomma, si dimette, poi il Papa respinge le dimissioni, eccetera, eccetera. Insomma, una giusta presa di posizione. La pedofilia ecclesiastica è un fattore strutturale e non occasionale della Chiesa Cattolica Romana, a causa del celibato e della sua sbagliata teoria dogmatica. Anche il manifesto del 5 giugno, Germania, il cardinal Marx si dimette per gli scandali sugli abusi sessuali dei preti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso di Marx è stato lo studio congiunto di un istituto di ricerca che ha documentato appunto questi 38.000 casi con migliaia di minori abusati dai preti. Dalla Repubblica del 6 giugno, celibato dei preti, abusi su minori. Caro Merlo, chapeau al cardinal Marx per le sue dimissioni. Torna però alla mente il cardinal Lowe, morto nel 2017, il quale coprì, e le prove sono solidissime, una serie impressionante di abusi su minori. E dal sito dell'UAR, la clericalata della settimana. L'Italia sponsorizza il Vaticano all'Organizzazione Mondiale della Sanità. E qui siamo al solito leccaculismo dei nostri governi, che siano di destra o di sinistra, è sempre una gara a favorire la religione cattolica. Dal giorno del 9 giugno 2021, il prof di religione era l'incubo degli alunni. Lecco, colpo di scena durante il processo. Il giudice Manzi ha rinviato gli atti alla procura affinché si indaghi per l'ipotesi di maltrattamenti. La posizione dell'ex insegnante di religione delle elementari di Esino Lario e Dervio si aggrava. Ieri il giudice democratico, insomma, ha mandato gli atti alla procura, insomma, ne faceva di tutti i colori. A un certo punto ha spiegato la mamma cosa succedeva, che mio figlio non voleva parlare dell'insegnante di religione. Un giorno si è messo a piangere, insomma, questo qui. Testimonianze agghiaccianti di questo paraculo dei preti. Cile. I gesuiti riconoscono 64 vittime di abuso sessuale. Da www.dw.com, 26 maggio 2021. In tutto il mondo esplode lo scandalo e le dimissioni del cardinal Marx sono segnalate anche sul Corriere, che gli dedica quasi mezza pagina il 5 giugno. Abusi, la Chiesa è un punto morto. Speriamo che muoia. Allora, i leghisti filocrocifissi, il caso Lombardia Filconnition, da il giorno del 4 giugno, rito abbreviato per i commercialisti Rubba e Manzoni, pene superiori, confiscate le ville, insomma, buone notizie contro i filocrocifissi. Dall'Espresso invece cosa troviamo contro la Chiesa? Dall'Espresso del 6 giugno 2021, fiumi di soldi da Lussemburgo e da San Marino, il crack e la condanna, i finanziamenti illeciti ai leghisti filocrocifissi, tutti i guai del senatore ombra di Salvini. Qui c'è quattro pagine che ne dicono di tutti i colori contro i filocrocifissi della Lega, speriamo che li crocifiggano. Sempre dal sito dell'UAR, contro l'ora di religione, non c'è più religione per chi non la vuole. Il mese dell'alternativa all'ora di religione sia il giugno. Le iscrizioni al prossimo anno si sono chiuse il 25 gennaio, ma non per tutti. Chi aveva detto no all'insegnamento della religione era ancora in attesa di dare disposizioni, insomma c'è un ricorso che agevola la scelta delle attività alternative. Il TAR dà ragione agli atei italiani. Dal mensile anticlericali anarchico Sicilia Libertaria c'è l'articolo di Fra Dubbioso, al di qua la pillola del Papa blocca le nascite ma lo fa ricco. La notizia di quei stupefacenti, il Vaticano tramite la sua segreteria di Stato e questa tramite l'APSA, per circa 20 anni ha investito quote per 20 milioni di euro in industrie farmaceutiche che facevano le pillole contro la gravidanza, altro che politiche familistiche. In realtà è tutto un bluff, perché la Chiesa è tutto un bluff, è tutta una truffa, è un'associazione a delinquere. Da Il Giorno, il quotidiano nazionale del 5 giugno 2021, italiani, gente di poca fede, atei raddoppiati. Nell'ultimo quarto di secolo, chi non si riconosce in nessuna religione è passato dal 9 al 18%, cioè comprendendo sia gli atei veri e propri, sia chi non professa nessun culto. Sempre dal sito dell'UAR, Unione degli Atei, buone novelle laiche, ha ragion veduta. La Chiesa Cattolica deve pagare la tassa rifiuti per gli immobili non destinati al culto. Sentenza della Cassazione, molto bene. Passiamo alle notizie, altre notizie anticlericali. Si demolisce un convento a Tradate, ex convento, alla giù, domani le ruspe. Si valuterà la destinazione, dai padri serviti agli alloggi. La declericalizzazione della società italiana passa anche attraverso la demolizione dei conventi. Cade dalla scala per sistemare la tettoia dell'oratorio, muore il sagrestano. Tragedia a nave il 13 febbraio 2021, invece di avere dei miracoli, dei benefici, il sacrestano è scivolato dalla scala e è morto sul colpo. Altro che miracoli, altro che reliquie, cioè tutte truffe. Poi da oggi, del 22 aprile, il settimanale, non saremo bravi cristiani se scordiamo che Gesù è un amico, bell'amico, con tutte le disgrazie che succedono ai suoi stessi preti, ai sacrestani, eccetera. Meglio perderlo che trovarlo. Passiamo ora al mio piccolo dizionario di terminologia atea anticlericali, edito appunto da Sicilia Libertaria, la mail è quella di prima. Favola mortuaria è la vicenda del corpo di Cristo crocifisso che sarebbe risuscitato. Su questa figura cadaverica la Chiesa ha costruito la sua immensa fortuna basata su trucchi, falsità, eccetera. Favolette trinitarie e petrine si sviluppano soprattutto nel Medioevo, sostituendosi agli altrettanto fantasiosi culti pagani, insomma da una truffa all'altra. Tutte le religioni sono truffe e abusi della credulità popolare. Passiamo al più mostruoso crimine della storia della Chiesa, gli evirati cantori, questi puttini castratelli che venivano evirati in età prepubere per farne dei cantori nella cappella pontificia. Soprattutto in Umbria abbiamo avuto molti casi. Baldassarre Ferri, nato a Perugia il 9 dicembre 1610, fu evirato dal cardinal Crescenzi, che se lo portò a Roma e gli fece fare il servizio, tra virgolette, e ne fece appunto un eunuco per i suoi vizi, per diciamo essere coerenti col detto evangelico, la donna taccia, che allora le donne non potevano cantare nelle chiese. Dal calendario anticlericale 2021, 6 giugno 1430, concordato fra il duca di Savoia Medeo VI e il clero piemontese per lo sterminio degli eretici valdesi. 7 giugno 2011, disgrazie clericali, muore assassinato da ignoti con un fortissimo colpo alla testa Don Ricardo Muñoz di Cartagena in Spagna. 8 giugno 2019, Argentina, sotto processo il vescovo Zanchetta per abusi sessuali aggravati. 9 giugno 1889, nel luogo stesso dove fu arso vivo con mordacchia in bocca, è inaugurato un monumento al filosofo Giordano Bruno, martire del libero pensiero. 10 giugno 2019, diffamò l'Arcigay, il fondatore del Family Day Massimo Gandolfini, condannato a 30.000 euro di sanzione. 11 giugno 2016, terribile disgrazia sull'alto obelisco dedicato a San Domenico a Napoli, un fedele precipita morto sul colpo. 12 giugno 2013, ben 3 preti si suicidano nell'isola irlandese in soli 18 mesi. L'ultimo è Don Matt Wallace a Belfast, nel nord Irlanda. 13 giugno 1946, lettera segreta del governo argentino al Vaticano, in cui si prendono accordi per la fuga dei criminali nazisti. E concludiamo con un paio di detti anticlericali. Allora, parliamo di un detto di Lorenzo il Magnifico e uno di Voltaire. Lorenzo il Magnifico, siamo quindi nel 1400. Questo stato ecclesiastico è sempre la ruina d'Italia, perché gli ecclesiastici sono ignoranti e non sanno modo di governare gli stati, però periclitano tutto il mondo, cioè mettono in pericolo tutto il mondo. E sacré l'infame, schiacciate l'infame, cioè il fanatismo religioso, Voltaire. Con questa fase illuminista vi do appuntamento alla prossima puntata. Saluti a tutti. Di morir nel fango della via, imiteremo Bresci e Ravasciol. Chi tende a te la mano borghesia è un uomo indegno di mirare il sol. Le macchine studenti dilaniano i presenti e pallide piangenti sta le spose ognor. Resta in campi incolti e minato e sepolti e gli operai travolti da omicidi ognor. E a chi non soccombe si chiude alle tombe, sa presti le bombe, sa fili il pugnal. È l'azione l'ideale. Francia allerta sulla ghigliottina, leva il capo a chi punirla vuole. Spagna vil, garrotta ed assassina, fucile Italia a chi tremar non suole. In America impiccati, in Africa sgozzati, in Spagna torturati a Montjuïc cognor. Ma la razza trista del signor teppista, l'individualista sa colpire ancor. E a chi non soccombe si schiuda le tombe, sa presti le bombe, sa fili il pugnal. È l'azione l'ideale. Finché siamo gregge è giusto che vi sia cricca social per leggi decretare. Finché non splende il sol dell'anarchia, vedremo sempre il popolo trucidar. Spirino ridite, se la dinamite vuoi scoppiare, udite contro l'oppressor. Abbiamo contro tutti spiri e farabutti, e uno contro tutti noi li sperderemo. E a chi non soccombe si schiuda le tombe, sa presti le bombe, sa fili il pugnale. E a chi non soccombe si schiuda le tombe, sa presti le bombe, sa fili il pugnale. E a chi non soccombe si schiuda le tombe, sa presti le bombe, sa fili il pugnale. E a chi non soccombe si schiuda le tombe, sa presti le bombe, sa fili il pugnale. È l'azione ideale. questa primavera. Arriverà l'estate. L'ha detto anche la fioraia stamattina. La pasta! Sei pronta? Sì. Adesso piatti. Vieni su Monte Calvario.